voglia di te, cielo, però ho chiuso con te da oggi in poi, perciò fatti miei conquistarò, fatti miei chi sceglierò, perché il male che ho dentro adesso è proprio immenso. Io, una donna che sa che ogni cosa ha il suo prezzo, sarò, lo sai, io punto lontano, libero ormai dalla tua mano. Fatti miei se sbaglierò, fatti miei se piangerò, io con te non ci sto, ti dico no, ti dico no, ti dico no. Immenso.